in diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air, ovvero l'amore è nell'aria, e mai come oggi, visto che oggi è la festa di San Valentino. Buongiorno a tutti voi, oggi giovedì 14 febbraio, di nuovo insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. E naturalmente voglio fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Valentino, Valentina, buon onomastico anche a voi, e auguri a tutti quanti, non solo agli innamorati, perché San Valentino è la festa di ognuno, sì, la festa di ognuno, non solo di quelli che sono in coppia, perché l'amore vale per tutto, non solo per chi si ama, per l'essere umano, ma l'amore si intende anche l'amore verso le cose, verso le cose che uno fa, giusto? Verso le cose che ci piacciono di più, quelle che facciamo con passione. E oggi dobbiamo prendere proprio in considerazione il fatto che, visto che è la festa dell'amore in generale, per tutto e per tutti, e magari faremo le cose che ci piacciono di più se non stiamo in coppia, daremo più amore a quelle passioni della nostra vita che magari per un motivo o per un altro altri giorni curiamo di meno, no? E allora, se ci piace andare a correre, andiamo a correre anche sotto la pioggia, perché no? Che ne so, se ci piace ascoltare tanta musica, rimaniamo tutto il giorno a casa a fare questo, o comunque portiamoci dietro l'auricolare e sentiamoci la musica, o che ne so, ci piace il nostro lavoro proprio tanto, lo amiamo, bene, facciamolo ancora con più passione. quello che intendo dire l'avete capito già. Oggi è la festa di tutti, non soltanto degli innamorati, quelli che stanno in coppia, ma la festa di tutti quelli che amano la vita, di tutti quelli che amano le cose che fanno. E se poi non siete innamorati di niente, fatelo, innamoratevi proprio oggi di qualcosa, inventatevi qualcosa che vi piace, qualcosa che vi fa impazzire, qualcosa che vi fa stare bene, innamoratevene e fatelo, ok? Fate l'amore con la vita, in tutti i sensi. E allora buongiorno ancora una volta a tutti voi, insieme a me sino a mezzogiorno, e questo amore naturalmente sarà un amore anche per quanto riguarda questo programma, nel senso che oggi vi regalo proprio un cuore ricco di musica e che parla d'amore naturalmente. E allora andiamo avanti con questo appuntamento appena cominciato, eh? E ascoltiamo subito Giorgia e l'amore che conta, lo sappiamo, no? In tutte le cose. Di errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. Valentino, la festa degli innamorati, una festa consumista snobbata dai più, anche perché nella vita di tutti i giorni il posto per l'amore è sempre più ridotto, no? Cannibalizzato da problemi di ogni tipo. Forse è anche per questo che sono i giovani quelli con meno pensieri, fra virgolette, e più sensibili alla sdolcinata giornata che è appunto dedicata all'amore. Lo sarebbero anche gli adulti, di un gesto carino, di una carezza sull'anima. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Sicuramente, ma mai lo ammettiamo certe volte, e allora snobbiamo un po' anche questo giorno. L'ideale sarebbe vedere San Valentino come un pretesto per fare qualcosa di diverso, con ironia e magari più sentimento, e le occasioni possono essere tantissime, e se non le abbiamo ce le creiamo, come dicevamo prima, per cui diamoci da fare. E poi vi ricordo che ci sono i numerini per interagire con me, mandate sms d'amore al 3355637251 o scriveteci scriverci alla nostra pagina Facebook oppure direttamente al nostro sito www.crmhappyradio.it. E a proposito, un saluto a tutti gli internettiani, i nostri fedeli ascoltatori che ci seguono tramite internet magari mentre stanno lavorando. E ancora di musica parliamo, musica d'amore per questo bellissimo singolo di Vasco Rossi. Già la prima segnalazione da parte vostra, in particolar modo da parte di Laura, che ci segnala è semplicemente il titolo di questa canzone di Vasco Rossi che sentiamo subito. Piacere che si muove lento, ho preso tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole e muove, ho un pensiero che parla di te. Siamo Laura che ci ha segnalato Vasco Rossi questo bellissimo singolo. E ritornando alla festa di San Valentino, la festa dell'amore, la festa anche degli innamorati, sì, anche degli innamorati, non solo degli innamorati, vi raccomando, teniamo bene in mente questa cosa. E vediamo un po' come si festeggia questo santo, questa festa dell'amore in altri paesi. Ad esempio in Germania gli innamorati scrivono bigliettini e acquistano regali, in genere non troppo costosi, e i fiori per il proprio partner, un po' come succede qua in Italia. In Olanda e in Inghilterra c'è chi spedisce biglietti non rivelando la propria identità. Questa cosa mi piace, potreste pensarci. Se vi piace qualcuno, scrivete bigliettini, attaccateli sul cruscotto della macchina, non lo so, metteteli da qualche parte identificabile, e così il gioco è fatto, può essere divertente anche. In Giappone la tradizione prevede che siano le ragazze a regalare una scatola di cioccolatini ai ragazzi, anche se non sono necessariamente i loro fidanzati. Vanno bene pure amici e colleghi di lavoro, e gli uomini che ricevono cioccolato a San Valentino devono ricambiare il dono ricevuto regalando cioccolato diventato bianco un mese dopo San Valentino. Pensate un po', ci devono pensare un mese dopo a prendere questa scatola di cioccolato bianco per le donne. E sarebbe il 14 marzo che poi danno questa scatola, mentre in Spagna invece in quel giorno, in questo giorno, vanno a ruba le rose rosse, come da noi anche. E negli Stati Uniti San Valentino viene festeggiato da tutti, anche dai bambini, che si scambiano biglietti raffiguranti gli eroi dei cartoni animati. Davvero carino questa cosa qua. Chissà che cosa faranno oggi i vostri figlioletti per voi, carissime mamme. Magari tornano da scuola con qualcosa di particolare per voi, anche solo un cuoricino colorato per bene, rosso rosso, con dentro scritto un bel pensiero. Beh, sarebbe proprio carino anche questo, sicuramente succederà. E naturalmente continuiamo con il nostro appuntamento musicale, la musica quella dell'amore, la musica quella che fa innamorare, la musica quella che fa, come dire, sciogliere l'anima. E arriva Antonello Venditti con questo singolo di grande impatto, che parla assolutamente di amore, segnalato da Gianni al 3355637251. La canzone si chiama Ogni Volta. Ogni volta che parlo di te, tu fai parte o non parte di me. Ogni volta che piango per te, tu fai parte o non parte di noi. Cercherò per non amarti più, ma mai nessuno al mondo sarai tu.

in tutto il mondo naturalmente. E perché fu scelto come patrono degli innamorati? Domanda. Risposta: è considerato il patrono degli innamorati poiché la leggenda narra che egli fu il primo religioso che celebrò l'unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana. Si dice che un giorno San Valentino sentì passare vicino al suo giardino due giovani fidanzati che stavano litigando. Allora gli andò incontro con in mano una rosa che regalò loro, pregandoli di riconciliarsi stringendo insieme il gambo della stessa, facendo attenzione a non pungersi e pregando affinché il Signore mantenesse vivo in eterno il loro amore. Qualche tempo dopo la coppia gli chiese la benedizione del loro matrimonio. Quando la storia si diffuse, molti decisero di andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni, e il giorno dedicato alla benedizione fu proprio il 14 di febbraio. Poi la data è stata ristretta naturalmente, perché da prima erano praticamente il 14 di ogni mese che veniva festeggiata questa ricorrenza dell'amore. Poi la data ovviamente fu ridotta solo a febbraio, perché in quel giorno San Valentino morì proprio in quella data a febbraio, per cui fu scelta questa giornata qua. Ok? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento e c'è Alicia Keys col nuovo singolo che si chiama Brand New Me, sempre all'interno di Deja Vu insieme a me, che starò con voi fino a mezzogiorno anche per questo giovedì del 14 febbraio. It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. If I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long for you, okay. I'll never be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. Bellissimo il nuovo singolo per Alicia Keys, Brand New Me, estratto dal suo ultimo album che si chiama Girl on Fire, già attivo da un bel po' di tempo, e questa è la canzone nuova che sicuramente ci piacerà ascoltare nei prossimi mesi per quanto riguarda questa bellissima nonché bravissima artista. E ancora l'amore tutto intorno insieme a Zucchero, Love is All Around. Ho visto un sogno, l'ho visto c'è, oltre le stelle, acceso in me. L'ho visto in terra, l'ho visto in te, l'ho visto dove, visto dove. Love is, love is all around. L'ho visto altrove, l'ho visto qua, nel sole giallo, io l'ho visto già. L'ho visto al buio, con gli occhi tuoi, quando i miei occhi erano stanchi ormai. Love is, love is, it's all around. It's all around. Stiamo ballando tra le rovine, sulle macerie, cercando amore fino alla fine. It's all around. L'ho visto nero, l'ho visto blu. Credevo allora che fossi tu. Ho visto un sogno, sembrava vero. Ci credo ancora e ancora spero. Love is All Around, brano inedito scritto proprio da Zucchero e Pasquale Panella, è il nuovo singolo che è naturalmente estratto dall'album La Session Cubana. E Zucchero ha conquistato anche l'Oceania, ha avuto dei concerti, ha fatto un tour proprio in Oceania, dove è stato un gran successo e dove continua ad esserlo, e naturalmente non poteva che colpire nel segno e conquistare il pubblico anche in Oceania. Benissimo, grande Zucchero, e questo è proprio bello come nuovo singolo. E non poteva mancare in questo giorno dell'amore la festa di San Valentino, una canzone famosissima, una canzone importantissima, una canzone che spesso gli innamorati scelgono per dedicarla a qualcuno, insomma per dedicarla al proprio amore. E in questo caso è Mimma che ci chiede La cura di Franco Battiato, una canzone che lei stessa naturalmente dedica al suo moroso che si chiama Enzo, e naturalmente vi accontentiamo. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura

sono stati 12.477.000 gli spettatori che hanno seguito la prima parte della seconda serata del Festival di Sanremo ieri sera. La seconda parte ha fatto segnare 6.606.000 con il 49%, la media ponderata è stata del 42% di share, con 11.330.000 spettatori. Rispetto alla prima puntata, il Festival di Fazio sconta quello che è stato descritto come un calo fisiologico di ascolti, perdendo in termini di media ponderata l'1,6 milioni e circa 6 punti di share. Lo scorso anno, fra l'altro, il calo fu molto più evidente tra prima e seconda serata. L'edizione condotta da Gianni Morandi perse in media 10 punti di share. Soddisfatto prevedibilmente il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, Sanremo, seconda puntata del festival, vista da tantissimi spettatori, e oltre a 2 milioni in più della seconda puntata dell'anno scorso. Quindi quest'anno lo si vede di più, la gente guarda di più questo Festival di Sanremo. E ieri sera, superata la tensione per l'intervento di Maurizio Crozza, il Festival di Sanremo ha in effetti ritrovato un po' della la sua leggerezza. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono una coppia super collaudata e legata da una profonda complicità, e proprio la Littizzetto ieri sera si è calata con la sua disinvoltura e impertinenza, naturalmente, nel ruolo di conduttrice, andando anche più in là con il divertente duetto con Carla Bruni, altra presenza attesa con occhio critico per il suo ruolo di ex premier Dame di Francia, lo sappiamo tutti. Comunque, in Sanremo, che ovviamente questa sera, se vogliamo, possiamo rivedere, soprattutto risentire con le sue nuove proposte musicali, perché soprattutto sono quelle che contano di più, appunto la musica a Sanremo. E noi ancora di musica vogliamo parlare, vogliamo ascoltare soprattutto, e Francesco Baccini canta della sua voglia di innamorarsi con questo singolo che appunto si intitola Ho voglia di innamorarmi. Mi va via la voce. Bisogna schiarirla, a fra poco. Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni, troppo tranquillo, senza grosse emozioni. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male, ho voglia di preoccuparmi e di dormire sulle scale. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, sono solo sai. Vederti passare e nascondermi fra le persone, senza avere il coraggio di dirti una parola, poi tornare a casa per sognarti ancora. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male, ho voglia di sputtanarmi e di soffrire come un cane. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, sono sicuro sai. Tutto è tranquillo, tutto normale. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di gridare, ho voglia di fare a botte e di finire a

stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, la colonna sonora di un famosissimo film, ovvero Armageddon, di Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, nonché la colonna sonora dell'unione, dell'amore che c'è fra Saverio e Grazia, che hanno segnalato questo bellissimo successo di Aerosmith, che assolutamente parla di amore, indiscutibilmente. In questo giorno di San Valentino, oggi giovedì 14 febbraio, sembra che in questo momento non piova neanche, stiamo bene, no? Me lo auguro almeno. Che anche voi in qualche maniera comunque sia state bene e siate al calduccio ascoltando la musica di CRM Happy Radio. Siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano con voi sino a mezzogiorno. Abbiamo ancora un bel po' di tempo, ci sono un sacco di belle canzoni da sentire. E tornando al Festival di Sanremo, ancora non si sa chi sarà il vincitore di questo festival, ma già si conosce il nome dei più sexy che sono arrivati appunto, che partecipano al Festival di Sanremo quest'anno, e a contendere la palma dei big più desiderabili di questa edizione sono il romano Daniele Silvestri e il newyorkese Peter Cingotti. Daniele Silvestri, sapete, cantatore romano, assente dal Festival di Sanremo dal 2007, ha tra i suoi punti forti quell'aria scanzonata e rilassata di chi è consapevole dei propri mezzi, oltre naturalmente a una totale padronanza della scena, capace di passare con disinvoltura da un pezzo di delicato, poetico e molto impegnativo, come a bocca chiusa, alla dance scoppiettante di pezzi come Salirò, vi ricordate? Salirò, salirò, questa era proprio simpatica come canzone. E poi dall'altro brano in gara quest'anno, Il bisogno di te, ricatto d'onor, probabilmente tormentone dei prossimi mesi, questo singolo di Daniele Silvestri. Ed è anche molto attesa la sua versione nella serata di venerdì prossimo, dedicata a Sanremo Story, una versione di Daniele Silvestri che canterà un classico di Lucio Dalla, Piazza Grande la canzone sarebbe. Nonostante sia più maturo di Cincotti, lui ha 44 anni, Daniele Silvestri ha un vasto seguito di fan di sesso femminile, tanto che su Twitter va forte tantissimo, scrivono miliardi di ragazze per lui e insomma, ragazzi, non ve lo consiglio, rimaniamo così, dice Daniele Silvestri, che è pure abbastanza impegnato, dice così a tutte quelle ragazze che vogliono insomma in qualche modo essere appunto le ragazze, la ragazza di Daniele Silvestri. Lui dice no, non ve lo consiglio perché la mia ragazza è molto molto molto gelosa, per cui evitiamo. E intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento, e c'è la musica di Elisa, un altro grande successo per voi. Mi hai lasciato senza parole come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. E l'attimo in cui il sole diventa dorato, il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via. Da qui ti vorrei sollevare, ti vorrei consolare. Sentire, per un momento avrei voluto che fosse vero anche soltanto un po'. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo sparire, e invece ti ho visto mirare, e invece ti ho visto sparare a quell'anima. Bye. che soffia e non nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore, stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. E cos'è l'amore, canta Elisa in questo bellissimo singolo Ti vorrei sollevare insieme a Giuliano San Giorgi. È un grande successo richiesto al 3355637251. E cos'è l'amore, questa cosa che, di cui tutti hanno paura certe volte, perché si sa, quando si è innamorati, quando ci si innamora all'inizio si ha sempre paura che possa finire da un momento all'altro, perché è una cosa talmente bella che ti senti talmente vivo, stai talmente bene, che hai paura che, insomma, che finisca da un momento all'altro, che sia un sogno, insomma, che non sia la realtà. E quanto durerà questa storia d'amore? Questa è una domanda ricorrente. Sarà per sempre? E insomma, sono cose che tutti quanti ci siamo chiesti almeno una volta nella vita, quando ci siamo innamorati, no? E a quanto pare un semplice test potrebbe far capire quanto può durare un amore. Uno studio della Brown University, infatti, dimostrerebbe come sia possibile stabilire la durata dell'intensità dei sentimenti grazie ad una speciale risonanza magnetica al cervello, pensate. E quindi praticamente c'è questa possibilità, da oggi pare sia possibile ottenere questa risposta seria. Questo studio della Brown University, pubblicato dal Daily Mail, dimostrerebbe come sia possibile stabilire l'intensità e la durata dell'amore attraverso una semplice rilevazione dell'attività cerebrale. I ricercatori sono riusciti ad evidenziare delle notevoli differenze nell'attività cerebrale tra le coppie più solide e quelle più instabili. 12 soggetti che si sono sottoposti all'esperimento, metà dei quali sono rimasti insieme al partner alla fine della ricerca. Il test si è basato sull'analisi dell'attività cerebrale rilevata durante una risonanza magnetica del cervello, mentre veniva mostrata loro una foto del partner e veniva chiesto di pensare alla persona amata. I risultati hanno mostrato l'esistenza di un gran gap tra le persone che mostravano una maggiore attività nell'area che reagisce di solito alla bellezza visuale e quelle che invece mostravano una maggiore reazione nella corteccia mediale legata invece alle critiche e ai giudizi. A giudizi. Sorprendentemente, ma non troppo, le aree del piacere erano meno attivate nelle coppie solide, pensate, rispetto a quelle di più breve durata. Un fenomeno, secondo gli scienziati, legato alla sazietà e alla soddisfazione. Avete capito? Tutte le persone coinvolte nello studio provavano un amore molto intenso per il partner e questo si vedeva nelle risonanze. Ma c'è qualche sottile indicatore che mostra quanto fossero in realtà stabili questi sentimenti. E solo se l'amore si combina con una visione positiva del partner, con un'attitudine a moderare i conflitti, il rapporto sembra essere realmente produttivo. E secondo gli esperti, la scoperta potrebbe avere un vero risvolto pratico, aiutando ad esempio le coppie in crisi a capire meglio le origini del conflitto, pensate. Che dire, per questo San Valentino qualcuno potrebbe anche optare per una bella risonanza in ospedale in alternativa alla solita cenetta a lume di candela. Potrebbe essere un'idea particolare, diversa, unica. E invece sentiamo la nuova canzone dei One Republic, si chiama If I Lose Myself, all'interno di Deja Vu, sempre insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno.

Déjà Vu su CRM Happy Radio. La trovo fantastica questa canzone di Sade, By Your Side, qui su CRM Radio all'interno di Déjà Vu, quando mancano circa meno di 15 minuti alla fine di questo appuntamento di oggi, giovedì 14 febbraio. Ancora buongiorno, ancora buona festa di San Valentino a tutti voi e soprattutto un buon onomastico a tutti Valentino e Valentina all'ascolto. E naturalmente in questi 15 minuti circa dobbiamo approfittare di sentire la musica, per sentire la musica più bella che ci avete segnalato, e purtroppo non possiamo proprio accontentare tutti perché il tempo è proprio tiranno e stiamo proprio per concludere. Dobbiamo prendere, diciamo, le cose più belle che ci avete segnalato, facciamo una selezione, e fra queste c'è anche questo singolo di Ben Pierce che si chiama What Am I Do. Thank you. thought you were the night. Yeah, get bowed in, I just sat at the back, keeping you out the way you act. Keep a string attack, getting out of line, I'm making you back in your place. All is well and all is good, stay in your place. Don't be no fool, we'll get along alright. You look like the type that would try to fight. Best off being a friend of me. You don't want to up in me. Better play it cool, don't know what I might do. What it had to be when I heard you say what you said to me. You made me do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Yeah, get by then. I just sat at the back, keeping you out the way you act. Keep a string at that. Getting out of line, I'm making you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, we'll get along alright. You look like the type that would drive by. There's not been a friend of me. You don't want to love in me. But play it cool. Don't know what I might do. CRM Happy Radio. You're my river running high. Non si riesce proprio a stare fermi con questo singolo I'll Follow Rivers. Qui su CRM Happy Radio siamo in conclusione anche per quest'oggi, per quanto riguarda l'appuntamento insieme a me, che sono sempre io, sono sempre Mary Catalano, e questo è Deja Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì in onda appunto dalle 10 circa sino a mezzogiorno con la musica che più ci piace, vero? E allora come procede questo giorno dell'amore per tutti voi? Mi auguro proprio bene, continuate pure così, miglioratelo sempre di più nell'arco della giornata fino a che non finisce, e domani continuate comunque a fare l'amore con tutto quanto, con tutto quello che vi piace, con tutto quello che è passione nella vostra vita. Io vi auguro un buon proseguimento, fra poco carta e penna insieme a Filippo Glorioso, e vi auguro anche un felice weekend, perché noi ci risentiamo la prossima settimana, martedì prossimo dalle 10 a mezzogiorno. Ciao ciao!